Io? Ma ancora questa storia di quello che sta succedendo. Allora, siamo 25esima puntata. Sigla! Buonasera, non lo so, questa volta il silenzio mi era sembrato più figo, una suspense, invece è venuto peggio del solito questo intro. Sarà perché volevo fare contrasto col fatto che invece siamo una cifra. Fate un po' la Barbaro, per favore. Per darvi un'idea, e saluto al mio fianco, come di consueto, Silvano. E salve, salve, buonasera a tutti. Fonico bullizzato. Saluto al mio fianco sinistro, la Virgi. Ciao a tutti. Mentre procedendo il grande ritorno della Gabri. Buonasera, bentornate, bentornati. E ancora più avanti c'è la Betta. Buonasera, buonasera. Mentre nelle retrovie la nostra professoressa Viola. Eccomi, ciao, ciao a tutti. Per darvi un'idea di quanti siamo, salutiamo anche Iron Man. Sì. No, vabbè, sì, no. Iron Man è qualcosa di più... Cioè, ok, esattamente, salutiamo anche Alexa. Bentornati su Radio Forte. Oh, vedi come si fa, sì, un seria, saluto come ci siamo normale. Tutti. Iron Man, veramente non riesco a tenere il passo. Chiedo scusa. Comunque. Senti maestro, ma vogliamo salutare anche il cane? A sto punto sta a questo punto Ariel. La mascotte. Che è al piano di sotto, vero? Assolutamente. Sì, sì. Spero di sì. Sta rosicchiando le colonne del soppalco di Radio Forte. No, le abbiamo dato un bastoncino molto lungo per poter giocare fino alla fine della diretta. Molto bene. Alle 17.02 quindi prende corpo questa 25esima puntata in diretta di 100 Celle Avengers su Radio Forte. Oggi è il 16 ottobre, di sabato. Ci ritroviamo qui in 6, ben 6, a portare avanti questo lungo sommario di cose cariche, rubriche che se ne ritornano, rubriche nuove che nascono come se fossero poche quelle che già ci avevamo, ma soprattutto la possibilità di interagire con noi. Questa possibilità verrà illustrata dall'avvocato. Prego. Esatto, potete seguirci sui nostri canali. Dovete seguirci. È avvocato. Guai a voi se non ci seguite sui canali. Anzitutto sul sito del Forte Prenestina, all'indirizzo www.forteprenestino.net/radioforte, dove potete trovare anche i podcast delle puntate precedenti. Cosa che non smetteremo mai di ricordare. E ancora sul nostro canale Telegram Radio Forte, basterà cercare Radio Forte 100 Celle Avengers. E infine su Jitsi, se volete entrare nel vivo della trasmissione, venire fisicamente, ecco, dentro alla redazione, e su Jitsi basterà digitare la stanza Music Forte Factory. E voilà. Pulita, concisa, bravissima. E quindi abbiamo anche un arrembante music da ascoltare per scioglierci, giusto? Però me la devi introdurre, chiaramente. Certo, certo. Per introdurre la puntata di oggi volevo mandare un pezzo delle Bengals appartenente al primo EP del 1986, che è una bomba e nessuno si aspetterebbe che sono proprio loro, e invece ecco le Bengals. Su Radio The Forte. Real World. 100 Celle Avengers. Side. Stai ascoltando Radio Forte, Radio Forte. E questo è 100 Celle Avengers. E di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Diciamo, questa cosa era bellissima. Sì, comunque lo posso dire. No, non lo devo dire. Grande Giuseppe per questo stacchetto. Sì. La prossima volta raccordiamo la chitarra. Però grande, grande. Ma che c'entra? Vada, guarda che originalità. Io la faccio. Devo sempre è rompere. Punk. Devo sempre rompere l'armonia di queste cose. Comunque, continuate a contribuire con gli stacchetti per 100 Celle Avengers che noi li pubblichiamo. Dopodiché, volendo cominciare come al solito con l'attualità, andiamo a lanciare la rubrica che più di tutti parla della scuola di musica, se solo trovassi la sigla, mannaggia, e che è, comunque si chiama 100 cioè, celle. C'è qualcuno che lo 100 sa. 100 celle a Marcord. Oh, grazie, c'è cioè, qualcuno che lo sa dire bene e questa è la sigla. Ricordati di te com'eri prima. Pure estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Pure estate fa, i ricordi. Tutti quanti stiamo già aspettando. Pure estate fa, è saggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Pure estate fa, ricordati di me. E quest'oggi a 100 celle a Marcord andiamo a pescare diverse estati fa. Perché a proposito di primo pezzo, prima dicevi il primo singolo dei Bengals, adesso ti parlo del primo pezzo fatto nel primo saggio della scuola di musica. Proprio primo. Correva l'anno 2014, anno della fondazione, grazie per il supporto sulla data, ho paura di dimenticarla. E niente, abbiamo anche dei presenti qui che si esibirono in quel pezzo che andava ad aprire appunto il saggio, come del resto apre, vabbè, lo sapete, è un famoso stacco della televisione. Celle Avengers. Di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers abbiamo ascoltato i primordi dei primordi. Ma chi era sta chitarrista? Ma guarda, quanto io ricordo giovane. L'emozione di quella prima volta che abbiamo calcato il palco con la primigenia formazione di MD, di musica d'insieme, della nostra band, della scuola di musica. forte. E niente, mi ricordo ancora l'emozione di quando tu il suano e se ne è uscito con l'imitazione di Lucio Dalla, appunto, è stato uno spasso, ecco. Oggi, grazie, oggi grazie. Come allora, rido a sentirla. Stato un comico. Ma sei stato bravo, sei stato uno spasso. Vi posso chiedere una cosa, ma chi c'era di quelli che ci sono oggi? Nell'esecuzione c'era anche una Angie, se non sbaglio. C'era Angie al piano, Franci alla batteria. E su Angie entra il jazz. Esatto. Sì. Viviana al basso, la sottoscritta alla chitarra, il maestro suano alla voce. E anche la partecipazione del maestro di Sciullo, naturalmente, che mi supportava. Dire che c'era una chitarretta e faceva sì. Ecco, quella chitarretta che faceva non ero io. Ma come, io pensavo fossi tu. No, vabbè, non volevo dire che non eri tu, volevo solo dare anche quello che è giusto al maestro di Sciullo, che salutiamo. Ciao maestro. E continuando con l'attualità della scuola di musica, appunto, raccontiamo un pochino questa prima settimana di incontro della classe di musica d'insieme. Era prevista la cerimonia del cappello parlante, ora non c'è stata perché ancora il computo dei partecipanti è arduo, un po' come il ballottaggio. Ci tengono sulle spine. Li teniamo sulle spine, ma ci siamo sciolti nel dire che le classi saranno effettivamente e sicuramente 4-4. Quindi ricomincia e rilancia un'altra volta il concorso Trova il nome per le band. Quindi si accettano appunto varie idee sul numero 4 per creare queste nuove band di musica d'insieme, che appunto sono in parte un rimpasto di governo, in parte incamerano per fortuna nuove leve, nuove facce. Io ho un nome che viene dal tuo mouse. Eccala. I Fantastici 4. Però non è male. Ma perché? Perché il Magic Mouse? Che okay. Sta scritto lì. Niente, una cosa che nessuno poteva vedere, cioè il mio tappetino del mouse composto da un fumetto dei Fantastici 4. A tutti interessa questo, era importante dirlo. Meno male. Quindi, comunque, volevo dire che dopo questa prima settimana, non avendo fatto le classi, ci siamo incontrati tutti ammucchiati, distanziati nell'aula magna, ecco, dove si è fatta la classica lezione che ogni anno facciamo di ascolti, e cioè di proposte. Oltre appunto a illustrare un po' le dinamiche che ci saranno, che ho già detto, della divisione, segregazione in 4 gruppi da 5, ci siamo cominciati a far girare le proposte, sia quelle venute da noi maestri, sia quelle del popolo degli allievi. E c'è stato il purpurri, ovviamente, come al solito. Tutto questo ha riempito il contenitore che spontaneamente si crea con la rubrica degli scartati. È tornata! Cioè, la rubrica che si occupa dei pezzi che vengono proposti a Musica Insieme e vengono bocciati. Quindi almeno vengono mandati in radio, fatti però dall'originale. A meno che non ci si accanisce a farlo in privato, ma questo ancora non è successo. Per gli scartati di questa puntata io mi rifaccio in realtà a una lista di scartati dell'altro anno, perché quella di messa insieme mercoledì scorso è veramente basta e ne abbiamo puntate e puntate, ma rimasta dall'anno scorso c'era questa che mi piaceva assai, e sono i Camillas. Mi dai fastidio. Ascoltatore. Mi dai fastidio. Ad un attore. Mi dai fastidio. Libero attore. Sting come Big Jim, radio forte, che con player solo quando gioco presto di notte. Cento celle range style, ed erano i Camillas su Radio Forte 100 Celle Avengers. Allora io le dico subito una cosa che mi ha dato fastidio. Ok, hai così anche sopperito alla cosa che non ho fatto prima, cioè dire il titolo che era appunto Mi dai fastidio. Cosa ti dà fastidio? Mi dà fastidio che tu non abbia messo la sigla. Tu prepari le sigle sempre. Questa c'è la sigla e tu non l'hai messa. Mi hai preso veramente in fallo su una cosa che ci tengo parecchio. C'era una mini sigla anche per la rubrica degli scartati. La mettiamo in chiusura. Sei stato scartato. Scusa, che manna a me? Scartato. Oh, per amore della completezza, andiamo a chiudere la rubrica degli scartati e passiamo la parola alla nostra Virginia, che quest'oggi non paga di averci già portato ovviamente una puntata della sua rubrica consueta, ne ha portata un'altra, una nuova che si chiama... Che si chiama Colpi Bassi e io non trovo la sigla, ma questo è un colpo basso che non te non volevo fare. Non si preoccupi, fare. Abbiamo tempo. L'ho pure colorata, pensa. Cioè, sigla! E state zitti! Oh. Complimentoni per la sigla. Grazie, grazie. Magnifica. Maestro. È un ode a Verdone. Spieghiamo anche la sigla. La sigla in realtà vuole intendere, diciamo, quello che ogni bassista subisce, ovvero sta facendo un solo di basso, è il momento per il pubblico di farsi una bella chiacchiera. Questo di base è quello che succede quasi sempre, non solo sui soli di basso, ma insomma, ecco, diciamo che i bassisti subiscono parecchio questa cosa. E quindi di cosa tratta questa rubrica? L'ho detto abbastanza volte di bassisti. No, figurati. Diciamolo a chiare lettere. Di cosa tratta questa rubrica? Quindi? Bassisti. Ok, con quel vittimismo di cui sopra, cioè sì, che sì, quindi certo. Poi porta alla dittatura, tu lo sai sempre. Vabbè, tanto lo sapete come funziona. Comunque all'inizio si pone così, noi poveri bassisti. Okay. Noi poveri bassisti, adesso ne parlo parecchio. Ok, quindi siamo tutti tuoi. Grazie mille. Allora, oggi come prima ufficiale puntata di Colpi Bassi volevo parlare della bassista Carol Kay, che è, diciamo, perché proprio Carol Kay, che non è un nome così famoso? Perché è la bassista più prolifica di sempre, turnista, ovviamente di turnismo stiamo parlando, ed è una bassista e oltretutto, insomma, musicista a tutto tondo che registrò più di 10.000 sessioni di registrazione in oltre 50 anni. Quindi diciamo che si spiega abbastanza con... Quindi è giovane, insomma. No. Però pensavo che era un esordiente. Vabbè, quindi... Ti stupirà sapere quanta roba ha fatto Carol Kay. Ecco, partiamo dai primordi e da quando Carol Kay iniziò a diventare proprio musicista, ma partendo dalla chitarra, perché ricordiamolo, lei iniziò a suonare nel 53, ma il basso elettrico nacque nel 1951, quindi possiamo prendere Carol Kay come una bassista che è nata col proprio strumento, iniziando però con la chitarra. Diventò talmente brava che già a 13 anni era insegnante di chitarra e oltretutto passando tra vari gruppi swing, appunto proprio come chitarrista, fece tantissime serate fino ad arrivare ai Capitol Studio come turnista appunto nello strumento della chitarra. Quindi possiamo sentire alcuni esempi di Carole Kaye come chitarrista, e molto molto molto famosi, uno non se lo aspetterebbe mai, eppure se li ha inventati lei questi giri. E, aggiungendo anche che come chitarrista di chitarra a 12 corde, lei più avanti suonò anche nell'album di Frank Zappa Freak Out. Quindi possiamo sentire Carole Kaye. Summertime and the living is easy. Ma come fa? Niente proprio di meno. Niente proprio di meno che le chitarre, insomma, una delle chitarre più famose che ci siano. Ecco, andando avanti, nel 63 lei si ritrovò in una sessione appunto di registrazione e mancò il bassista, e quindi lei si prese il Fender Bass, che era il nome del basso elettrico, l'unico che esisteva in quel momento, e iniziò a suonarlo. E quindi dal 63 iniziamo a vedere una miriade di collaborazioni di questa fantastica bassista, a partire da pezzi come I'm a Believer dei Monkees, continuando per You've Lost Your Loving Feeling dei Rathaus Brothers, e per finire con uno dei pezzi più importanti di basso che ci siano mai stati, ovvero This Boots Are Made for Walking di Nancy Sinatra, di cui abbiamo un esempio. Becca si spicci. Tanto per dire. You keep saying you got something for me. Ecco, appunto, beccate questi spicci, perché stiamo parlando di roba seria. Tanto che Carole Kaye andò a finire anche a collaborare con Quincy Jones, e tutti sappiamo che Quincy Jones era il re delle diciamo sigle televisive, di tutta quella di tutto quell'ambaradan che veniva messo dietro la televisione dal punto di vista musicale. E infatti qui possiamo portare un esempio di Carole Kaye nella serie TV Wild Wild West degli anni 60, però non il film ovviamente, ed eccola qui. Andando avanti con le collaborazioni di coppia, possiamo trovare appunto la collaborazione con Tina Turner, anzi Ike e Tina Turner, e soprattutto la coppia Sonny & Cher, di cui inventò l'iconico giro di basso di And the Beat Goes On. E passiamo adesso a quello che diciamo è la più grande collaborazione che ha avuto Carole Kaye, ovvero con i Beach Boys in Pet Sounds. Ma proprio i Beach Boys mi tira fuori. Vabbè, che ho fatto? No, abbiamo fatto il dissing l'altra volta. No, scusami. Ho capito, ha fatto bello il basso. Che te devo dire? Vabbè. avevo detto pure io che non ce l'avevo con loro. E qua si parla di storia della musica, non stiamo parlando di tifo. Di tifo, esatto, grazie mille. Mi taccio. Per favore, maestro. No, ho perso il filo. Allora, stiamo I parlando Beach dei Beach Boys. Dei Beach Boys con l'album Pet Sounds, e da qui Brian Wilson la definì ovviamente la più grande bassista del mondo, perché sentite un po' che cosa si è inventata Carole Kaye. Esempio. I love the color she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. E niente, io quando sento questo basso resto un po' sempre ad occhi chiusi a sentirmelo bene, perché è veramente un capolavoro. Stupendo. Eh sì. E quindi passiamo a concludere questa disamina su Carole Kay. Ogni volta dico disamina, mi viene da ridere. Su Carole Kay, continua. Lo puoi anche ripetere se vuoi. Disamina. Oh, grazie maestro, prego, prego, so cosa stai andando a fare. No, niente, niente, vai, vai, prego, continua a parlare. Chiudi la disamina. A me uscirebbe disamina. Abbiamo il baby scratch che qui sta attendendo. Comunque concludiamo questo discorso su Carole Kay portando, dopo aver portato diciamo uno degli album più belli della storia della musica, portiamo quello che a mio parere è uno degli album più belli della storia della musica, ovvero Forever Changes del gruppo Love del 67, gruppo diciamo di, sì, di Los Angeles, senza diciamo un gruppo di Los Angeles, in cui in questo pezzo il basso è suonato da Carole Kay. Quindi vi lasciamo con The Daily Planet dai Love. nuovo su Radio Forte 100 Celle Avengers. Passiamo da una rubrica nuova a un'altra rubrica nuova. Mi sono impastato. Siamo pieni di rubriche nuove. Esatto, non riesco più a dire rubrica. Vogliamo rubrica. Parlare di cosa tratta la rubrica, oppure mandiamo direttamente la sigla? Lo sai che io non l'ho sentita la sigla, cioè la prima volta. Oddio. Cioè una confessione in diretta, giuro che alla fine non, cioè, ho letto solo i commenti degli altri sulla chat privatissima. Ah, mi dirà che farà schifo in diretta. Esatto, ecco. Cioè puoi gustarti una reazione in diretta. Evviva. Beh, frega a nessuno, ma sì. Quindi la lancio, eh. Certo. Ma neanche, cioè questa è. Questa è Simply Sampled, della nuova rubrica che parlerà delle canzoni prese dai propri sampled, anzi, ah, okay, da altri sampled. Bastava anche il titolo. Questa è Simply Sampled, sigla. Simi. Ascolta Tommy con una candela accesa e vedrai davanti a te il tuo futuro. Sto scrutando la faccia del maestro. È bellissima. È bellissima, che bello. Giù, sono sincero. Adesso va a vomitare in un angolino. Il tipo di poetica che io amo nelle sigle. C'è anche Totò, cioè qua. E niente, qui bisognerebbe mandare. Che succede? Che succede? La mascotte, okay. La mascotte sta evadendo. No, niente, abbiamo perso Ariel, la mascotte, ma vabbè, se n'è andata. Fuga da Radio Forte. Ma questo non distrarrà i virgiani, che sono appunto i padroni del cane, dal fare la loro rubrica. Posso, se volete, fare la professionalità prima. Il mondo del radio è un pasticcio. Radio Forte, 100 Celle Avenger, è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. In qualche modo è proprio grazie adeguata, Ariel, di essere andata via così. Quindi, adesso andremo a recuperare Ariel. Simply Sampled. Simply Sampled, abbiamo bisogno di un pezzo. C'è una base da mettere, maestro. Ah, cioè, così, siete sì, molto abbiamo scontrosi. Cioè, no, no, oh, cioè, nel senso. Neanche così, c'è una base da mettere. Ho fatto anche col dito. Per mouse dovresti cliccare e niente, manco lo trovo. Beh. Eccoci. E quest'oggi parliamo di Rock DJ di Robbie Williams, brano del 2000, il cui video integrale non fu mai trasmesso perché le immagini mostravano, con l'aiuto degli effetti speciali, tanto che vinse anche qualcosa sui video di MTV, ora non mi ricordo perfettamente, insomma vinse gli effetti speciali, e mostrava un Robbie Williams prima scuoiato e poi squartato dall'interno per riuscire ad attirare l'attenzione di una giovane giornalista. E questo video non fu mai mandato in onda, diciamo, in versione integrale. Quindi è uno dei video più controversi di sempre. Ma guarda, io veramente non so se ti rendi conto che questo non è il pezzo di Robbie Williams. Come, cioè, no? Io ho capito che tu ce l'hai con gli anni 70, li hai cancellati completamente dalla tua capoccia, ma questo pezzo è un pezzo del 77. Però ci assomigliava. È un pezzo di Barry White. È vero che noi non siamo arrivati ancora alla voce, ma questo è un pezzo di Barry White che c'ha un titolo veramente che sarà difficile da dire, ma prego. It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Complimenti. E chissà di che cosa parlerà il nostro amico Barry White in questo pezzo. Ecco, lo stai sentendo, vero? Eccolo Barry. Ecco. Adesso invece, comunque, calcolando che questo pezzo dura 7 minuti e effettivamente Barry l'ho scritto in un'altra epoca, purtroppo devo dire che è meglio quello che ne ha fatto il nostro Robbie. Quindi, se il maestro è d'accordo, io metterei il pezzo di cui parlava effettivamente la maestra. Cassato così. Ciao, Barry White. Benvenuto Robbie. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. So nice. When's it gonna stop, dear? the classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. I don't wanna be sleazy. Baby, just tease me. Got no family plan. Houston, do you hear me? Ground control, can you feel me? Need permission to land. I don't wanna rock, DJ, DJ. But you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? You're keeping me up all night. I don't wanna rock, DJ, DJ. But you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? Cause you're keeping me up all night. Pimping ain't easy. Most of them fleece me every selling it. Diretta su Radio Forte 100 c'è l'Avengers 17:39 e cosa mi va a succedere? Che con il grande ritorno della Gabri, cioè, vabbè, almeno questo lo potevo dire, sì. Cioè ha intimidito nella pausa musicale, cioè ve lo dico io adesso, no, ma devo essere sincero, per circa 10 minuti a me gli articoli davanti al nome non sono mai piaciuti. Vi devo fare questa confessione, io infatti ho adottato questa cosa soltanto qui in radio da quando siete diventati dei personaggi famosi, quindi vi ho messo l'articolo. Se, fa molto nord. Però in effetti una parte della mia famiglia lo fa, cioè tutta la parte di Arezzo che saluto, è vero, sì, dicono un tutti saluto. La Cricri, la Chiara, eccetera. Comunque, questo importa a molti, come dico spesso. Adesso bisogna fare le cose a modino. Si autointroduce. Adesso allora passiamo alla puntata, una nuova puntata della sottorubrica di 100 Cell Avengers, I Cigni di Balacà, e iniziamo con lanciare la sigla. You were my friend. Ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Balacà? Io mi emoziono sempre con questa sigla. Sì. E allora torniamo con questa nuova puntata, dicevo, dei Cigni di Balacà, dove in genere cosa facciamo? Noi prendiamo un caso di plagio di un brano musicale più o meno noto, come sapete, e lo trattiamo dal punto di vista quello forse più spinoso e a tratti anche più noioso, converrete con me, tranne che per la sottoscritta, dal punto di vista del diritto. È sempre molto interessante. Io penso che per vediamo chi... cosa dice la legge. Esatto. E mi aggancerei, riaggancerei subito al, a quanto ci hanno raccontato i Virgiani nella loro primissima puntata di Simply Sampled. Corretto. Parlando appunto della vicenda fra Robin Williams e Barry White, perché tutti si saranno domandati: ma com'è finita da un punto di vista legale fra i due? Ma certo, lo stavo proprio chiedendo, la prima cosa. Ma sono sicura che me lo stavate domandando. E allora voglio raccontarvi che è successo che per evitare un'accusa di plagio, il cantante inglese è stato costretto ad aggiungere, quindi, ai nomi degli autori del singolo Rock DJ, quelli di Nelson Pickford e Ecundayo Paris. E i due sono appunto gli autori di It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, che, come abbiamo sentito, è stata portata al successo da Barry White nel 1977. Originariamente, questo lo aggiungiamo per dovere di cronaca, gli autori indicati erano, oltre allo stesso Robin Williams, Kelvin Andrews e Gay Chambers. Quindi questo è quando il sample diventa plagio. È uno di quei... sì, decisamente. Quando ci si chiede... Il sample, sì, sono argomenti, chiaramente concetti molto affini, e quindi ci addentriamo in questa breve, giuro, disamina degli aspetti legali connessi al campionamento, appunto detto anche sampling, che possiamo definire come l'estrapolazione di una parte, di un frammento anche brevissimo di un brano, allo scopo di riutilizzarlo come base o come motivo ricorrente all'interno di un altro brano, quello che avete appunto trattato voi poco fa con Robbie Williams e Barry White. E questa operazione è diffusissima nell'ambito della musica hip hop, del beatmaking, e oggi ancora più diffusa data proprio anche la facilità con cui oggi è tecnicamente possibile smanettare su una traccia, ossia su un fonogramma. E sul piano del diritto questo cosa comporta? Quella che viene definita appunto elaborazione del brano originario, come appunto successo nel caso di Rock DJ e di altri artisti, fra i quali, come vedremo, i famosissimi Kraftwerk, che tutti conosciamo. Sì, parte subito il brano che giustamente mi hai messo. E allora, su queste note, tanto dura 7 minuti, diamo... È il motto di questo, oggi. Come Barry White. Cioè, come Barry White, tanto dura 7 minuti. Perché, allora, il diritto di elaborazione, questo brevemente va, dobbiamo fare questa premessa, è un diritto che appartiene in origine all'autore dell'opera stessa, e laddove è presente anche al suo editore, e lo stesso discorso vale anche per i producers, quindi per i produttori fonografici, che sono gli unici proprietari del fonogramma, o vale a dire del master, della registrazione finale carina fatta in studio. La regola di base quindi è che chiunque voglia utilizzare frammenti di un brano altrui, chiunque voglia campionare e realizzare un sampling appunto, dovrà chiedere due autorizzazioni, non una. Una al proprietario del master e come abbiamo detto quindi al produttore fonografico per l'utilizzo del fonogramma. E il proprietario del master in genere è reperibile nei crediti del disco. E l'altro all'editore musicale, l'altra autorizzazione, o direttamente all'autore del brano. Questo nel caso in cui il sampling intende far uso anche del testo o della melodia dell'opera originaria, quindi dell'opera musicale, suonata in quella registrazione. Quindi, entrando nel vivo del caso giudiziario di questa settimana, parliamo dei Kraftwerk che, come sappiamo, nascono come gruppo musicale a Düsseldorf negli anni 70, pionieri della musica elettronica, e il loro stile, infatti, musicale, ha dato vita a nuovi generi musicali, ha influenzato la musica popolare dalla fine del XX secolo, e sono stati protagonisti di questa vicenda giudiziaria conclusasi, pensate, dopo appena 20 anni, durata poco, solamente nel 2019. E tutto è iniziato perché i Kraftwerk sostenevano che Pelham, il noto producer hip hop Moses Pelham, avesse copiato in forma elettronica un campione, un sample, di circa 2 secondi di una sequenza ritmica del brano musicale che stiamo ascoltando, che è Metal on Metal, brano del 1977. Integrando poi questo campione, mediante delle ripetizioni successive, quindi un loop, nel brano musicale Nur Mir del 1997. Che possiamo mandare quindi per, diciamo, notare la somiglianza. Ma più che somiglianza, appunto, il riutilizzo di un frammento, quindi un vero e proprio campionamento del brano dei Kraftwerk. in questo brano interpretato nel 1997, dicevamo, da Sabrina Setlor. Il caso si concluse però, pensate un po', dicevo sì, solo nel 2019, quando la Corte di Giustizia dell'Unione Europea diede ragione a Sabrina Setlor, in sostanza, i Crafter persero questa causa. Ma infatti c'entra niente, mi sembra. Sì, perché vabbè, la ragione data dal, diciamo, dal tribunale è ovviamente riassunta molto sinteticamente, perché è ricca di cavilli che non vi sto manco a dire. E sostanzialmente fece prevalere un'eccezione sulla regola, perché se la regola, quindi abbiamo detto, da un lato impone che è quella secondo cui un supporto che riprende la totalità o una parte sostanziale dei suoni registrati in un fonogramma costituisce una copia per la quale il produttore del fonogramma gode di un diritto esclusivo, è pure vero, quindi questo costituisce l'eccezione e sposata dalla Corte, che non costituisce una copia un supporto che si limiti a incorporare campioni musicali, eventualmente in forma modificata, e che non sono riconoscibili, per l'appunto, come in questo caso, dove in effetti riconoscere il frammento del brano dei Kraftwerk è una impresa anche ardua, diciamo, quantomeno per un orecchio medio. Per cui la vicenda si concluse, diede torto, ecco, il tribunale, la corte in questo caso, diede torto ai Kraftwerk, e dopo appena 20 anni, poverini, si ritrovarono con un pugno di mosche. Beh, e oddio, insomma, sto pugno di mosche. Pugno di mosche, no. Magari esse noi Kraftwerk. Diciamo che poveri Kraftwerk. Solo per questa piccola vicenda, per il resto. Sono tenaci, però. E quindi, avviandoci già verso la conclusione, diciamo che ci dobbiamo porre la domanda: allora, come possiamo campionare senza problemi, senza incorrere in appunto problemi dati dal fatto che bisogna richiedere questa autorizzazione? E la risposta può essere, ad esempio, sfruttando il pubblico dominio. E infatti sappiamo che dopo 70 anni dalla morte dell'autore di un brano, o dalla morte dell'ultimo dei coautori, nel caso di brani scritti a più mani, l'opera musicale entra in pubblico dominio. E che cosa significa? Significa che potrà essere quindi liberamente utilizzata da chiunque, senza dover chiedere autorizzazioni. Così, stesso discorso vale per il master di proprietà del produttore, che cesserà di essere protetto e cadrà quindi in pubblico dominio trascorsi 70 anni dalla sua prima pubblicazione o comunicazione al pubblico. E qual è il genere musicale quindi a cui conviene attingere per il campionamento? Ci rivolgiamo a qualcosa di antico, oppure, ecco, quindi la musica barocca, la musica antica, la musica classica. E questo spesso accade anche in brani americani famosi. Esatto. È proprio il caso che stiamo ascoltando, quello del rapper Buzz Driver, che con il suo Imaginary Places ha lanciato questo brano tutto costruito attraverso il campionamento dell'Overture numero 2 in Si minore di Bach. Te capito. Bomba. Però. Ma potremmo farne anche un altro, di esempio, forse più recente, del celeberrimo caso del ragazzo, forse lo ricordate quel video del ragazzo che svolazza con i capelli al vento in bicicletta per le vie di Manhattan, così, e conosciuto, meglio conosciuto con il nome di Tyke, che con il suo When I Get You Alone, esatto, chi ti andava a campionare? Portava in giro sulla sua bici la quinta di Beethoven. Oh. Bei tempi. Per essere precisi, questo è il campionamento della quinta di Beethoven, già fatta e già campionata da Walter Murphy. Questa era una piccola precisazione, perché sì, io rompo. No, esatto, ci tenevo a sentire questa. C'è la batteria. C'è fervore, si bacchettano fra di loro le rubriche. No, beh, Tyke ha fatto questa, insomma, ha avuto anche un discreto successo, devo dire, con questo brano rivisto in chiave R&B, pop, di cui ci è piaciuto quindi trasmettere un frammento. Ma ancora più felici e onorati di ritrasmettere questo inedito, attenzione, siamo sempre nello stesso, restiamo quindi nell'ambito di campionamenti di brani di musica classica, vi presentiamo in diretta su Aldi. Allora, vogliamo dare un minimo di coordinate di questo, sì, pezzo, certo. Vogliamo almeno dire a chi era stato proposto. Io volevo ascoltarlo tutto. Ah, tutto? Tutto. Ah. Vabbè, posso almeno ipotizzare un... Yeah. Stai ascoltando Radio Forte e questo è il 100 Celle Avengers. Non ci stava bene? Ci stava benissimo. Yeah. Stai ascoltando Radio Forte e questo è il 100 Celle Avengers. È un piccolo baby scratch. Yeah. Stai ascoltando Radio Forte e questo è il 100 Celle Avengers. E di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Yeah. Quello che avete è sentito era appunto una base prodotta da questo produttore che campionava Vivaldi, appunto, che è stata proposta a un nostro speaker. Stai ascoltando Radio Forte e questo è il 100 Celle Avengers. Che speriamo in futuro accetti la parte, perché ancora il pezzo è senza una voce. Comunque, detto questo, che cosa andavamo a fare noi? Adesso ci deve essere un momento culturale, giusto? Esatto, il momento culturale. Dalle retrovie. Oggi neanche la vediamo. Allora, Viola è sistemata allora, in un angolo. Dite la verità, mi avete messo in punizione. È stata una cosa nessuno casuale. Vuole parlare poi con te. Mi vessate come io faccio. Ma poi avevamo detto che ti mettevi di volta anche verso di noi. Però. Lo so, però per parlare meglio devo stare adesso di spalle. Scusate le spalle, scusate. Figuri, colleghi, maestra. Amici. Figurati. Ok, sì, allora partiamo con la rubrica Music and Poetry, sigla. Lasciatemi leggere, sentire questa poesia. Vorrei e non so leggere, ho voglia di sentire questa poesia. Bello. Allora, anche oggi porto una sferzata, diciamo, di novità, anche se la rubrica è sempre quella, però diciamo volevo, ecco, fare questa cosa di mettere a confronto due artisti, uno sul piano appunto puramente della poesia, l'altro sul piano del cantautorato, e quindi citiamo Cesare Pavese per la poesia e cantautorato De André, e perché appunto ho letto ultimamente, mi è capitato nelle mie ricerche di trovare queste, queste assonanze, questi collegamenti con questi due artisti, questi due poeti. E allora partiamo subito con la prima somiglianza, che riguarda il tema della guerra. E diciamo tutti e due gli artisti ci invitano ad essere umani davanti alla guerra e alle sofferenze, e si evince nel, nella canzone di André con La guerra di Piero. E anche Pavese appunto fa questa riflessione sulla guerra e afferma che, diciamo, ogni guerra è una guerra civile e solo il dolore, diciamo, poi è quello che trionfa. E si evince nel romanzo invece La casa in collina. E la domanda che sorge è, diciamo, è quella se c'è veramente poi un vinto, un vincitore in una guerra, cioè chi muore è colui che è stato colpito, oppure anche chi colpisce poi alla fine muore, il suo animo morirà. E quindi, diciamo, tutti e due espongono contro l'ingiustizia delle guerre e l'amara morte dei soldati. Un altro collegamento che ho trovato è con il testo, per quanto riguarda De André, la canzone del padre, contenuta nell'album Storia di un impiegato, mentre per quanto riguarda, diciamo, questo collegamento con Cesare Pavese è tratto da un estratto di Ferie ad agosto, e li reciterò. Allora, per quanto riguarda De André, appunto, inizia, cioè, grazie. Scusa, grazie. Un tono... mi mancava qualcosa. Allora. C'è lì un posto, lo ha lasciato tuo padre. Non dovrei che restare sul ponte a guardare le altre navi passare. Le più piccole dirigile al fiume, le più grandi sanno già dove andare. E questo è De André. Mentre Pavese... Perché ridete? No, scusa, scusa. Che io sono anche di spalle, non vi vedo. Era la virgola. Prego. Ok. Allora, invece, Cesare Pavese, appunto, Ferie ad agosto. E mio padre mi lascia passare le giornate alla baracca dell'imbarco, perché così mi divago e imparo un mestiere senza accorgermene. Qui non viene più nessuno ormai, e sta fresco mio padre se crede che possa ancora imparare il mestiere. Diciamo che però la linea, diciamo, che mi ha colpito di più, questo, il collegamento che mi ha colpito di più è quello diciamo della morte, e sul tema della morte, e dove appunto Cesare Pavese, vabbè, la sua poesia, una delle più famose, è famose, verrà la morte avrà i tuoi occhi. Allora la recito, vai maestro, di nuovo. Un attimo che la tristezza se n'è andata. Viola, cioè, scusate, lo so, sono sempre allegra io. È perché qua i giorni, capito? Allora, verrà la morte, avrai i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando tu su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte, avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti. Mentre per quanto riguarda De André, la sua canzone proviene dalla ballata, e una ballata che si intitola appunto La morte, e abbiamo il maestro che farà partire il pezzo. Scusate, c'ho subito un sabotaggio. Meno male che però, cioè, con tutto che parlo di cose tristi, però comunque l'umore rimane alto durante la mia rubrica, ma questa cosa mi fa piacere perché... È che sei di schiena. Perché sono di schiena per questo. No, oggi è andata così. Io anche penso al nome dei bambini, ti ringrazio per aver mantenuto la promessa. Mettiamo davanti, diciamo, la morte fa parte della vita, voglio dire. Bambini, non fate così. Vabbè, però, cioè, l'altra volta ci eravamo lasciati con altri intenti. Poi, è vero, vabbè. No, c'erano le rune. Quindi, scusate, però qui, come stavo dicendo prima, le settimane scorrono veloci e scorrono non sempre leggere. Non lo so. Va bene, come mi viene così e come me la sento. Come me la sento. Sono piccoli attimi felici. Ok. Ciao amico. Quindi non passiamo amico. Alla morte? Vai, la morte di De André. Mm. la morte verrà all'improvviso, avrà le tue labbra, i tuoi occhi, ti coprirà d'un velo bianco, addormentandosi al tuo fianco. Nell'ozio, nel sonno, in battaglia, verrà senza darti avvisaglia. La morte va a colpo sicuro, non suona il corno né il tamburo. Madonna che in limpida fonte ristori le membra stupende, la morte non ti vedrà in faccia, avrà il tuo seno e le tue braccia. Prelati, notabili e conti, sull'uscio piangeste ben forte, chi bene condusse sua vita, male sopporterà sua morte. Straccioni che senza vergogna portaste il cilicio, la gogna, partirvene non fu fatica, perché la morte vi fu amica. Guerriero che in punta di lancia, dal suolo d'Oriente alla Francia, di stragi menasti in gran vanto, e fra i nemici il lutto e il pianto. Di fronte all'estrema nemica, non vale coraggio o fatica, non serve colpirla nel cuore, perché la morte mai non muore. Non serve colpirla nel cuore, perché la morte mai non muore. E torniamo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Abbiamo appena ascoltato La Morte di Fabrizio De André, proposta dalla rubrica Music and Poetry, che salutiamo ripetendo comunque ma come fa? A noi stessi. Kill Sam. E adesso mi succede qualcosa di nuovo. A 100 Celle Avengers per la prima volta abbiamo un ospite, però andiamo con ordine. Tutto questo accade all'interno dell'ennesima rubrica che si chiama Traumi Fonici, che io devo sempre imparare a tergiversare prima di dire il titolo, perché poi non trovo la sigla e quindi... Più su, questa è la sigla. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E a Traumi Fonici quest'oggi finalmente non parliamo delle mie disavventure foniche, appunto, ma di quelle di qualcun altro, e questo già mi rasserena un pochino. Che cosa trattiamo quest'oggi? La storia di un nostro amico, di un componente di Radio Forte, di una colonna portante, vorrei dire, di Radio Forte, e che è Giorgino, non Iron Man, anche se Iron Man pure tu sei importante, però stavamo parlando di Jorge. Allora, che succede? Giorgino è stato protagonista di una hit che è andata su Radio Forte nella rubrica Il Franzo della Domenica, che poi assume altri nomi, tutti comunque contraddistinti dall'autore Franzo, che fa appunto la sua trasmissione a Radio Forte, e ha avuto un tale successo da richiamare anche la nostra attenzione. Perché? Perché tratta appunto di un trauma fonico, comunque di una vicenda che affonda le radici nelle vicissitudini, nella routine di questi sconosciuti che sono i tecnici che montano le attrezzature. Quindi che succede? Che la persona di cui andiamo a parlare è una persona che ha vissuto un passaggio, e da che era una persona sincera, generosa, che si prestava per tutti, e insomma era fondamentalmente votato alla verità, un giorno impara, apprende sul campo nel senso sul palco, che il mentire a volte è utile nella gestione dei rapporti con gli artisti sul palco. Quindi questa scoperta lo folgora, gli fa quell'effetto un po' della carne al leone Alex di Madagascar, per cui poi non ci capisce più niente, e per essere proprio una persona che non l'ha mai fatto, poi diventa uno che ne abusa. E quindi da che era il semplice Jorge o George, diventa Jorge el Mentiroso. Ora, questo pezzo che andremo a sentire ha avuto un successo tale da generare anche altri tipi di, come si dice, di promozione, di indotto, quando insomma la cosa si espande, ecco, e si è parlato di un video. E quindi chi abbiamo noi, che è un'ora che lo sto introducendo, chi abbiamo noi qui? Abbiamo il regista, visionario, artista, creativo, nostro amico, ospite qui a Centocelle Avengers, Guido, il maestro Guido. Eccomi. Buonasera. Buonasera a tutti, sì, e tutti e tutte. Molto bene, perché ti abbiamo chiamato in causa? Perché oltre ad aiutarci a lanciare il pezzo, la hit, che sentiremo fra poco, per te è stato preparato un parallelo, perché noi abbiamo già trattato la vita di artisti, diciamo visionari incompresi, quale anche tu sei stato. Questo lo dico perché appunto la premessa è che il video di Jorge il Mentiroso mai si realizzò. No, e qui ti vorrei interrompere. Ok, prego. Perché il video è stato realizzato in realtà. Ah sì? Perché il video non voleva essere realizzato nella forma standard, quella aveva una sua forma peculiare. Ok. E quindi... cioè, il video non doveva essere trasmesso in onda. Non era un video musicale trasmesso su un canale televisivo, musicale. Bensì? Ma per radio? Per tradizione orale. Cioè nel senso, il video è stato fatto per poter essere raccontato. E in realtà qual è l'obiettivo che si pone un artista che fa un video? È di far sì che il concetto, l'idea rimanga impressa negli spettatori e la ricordino dentro loro e la tramandino. E questo è avvenuto. Effettivamente è così. La risposta mi ha spiazzato. Sì, ma anche con successo, nel senso che si parla proprio delle immagini, alcuni punti, alcune immagini sono rimaste impresse nella mente delle persone senza che siano mai state viste. Questo è quindi una vittoria, è stato questo video per me. Posso aggiungere una cosa, che noi abbiamo visto la troupe, anche se in realtà non l'abbiamo vista, la troupe di Los Angeles, giusto? Sì, in realtà sì, della troupe vorrei parlare dopo, però in realtà a me interessava anche nei prossimi 40 minuti, sì, parlare dei valori di questo video, perché io mi sono offerto di realizzare il video perché i contenuti dell'opera musicale erano fortissimi, le metafore sono chiarissime e molto forti. Ho parlato poi con l'autore, questo profugo cubano, che mi ha spiegato meglio quali erano i veri, già erano chiarissimi, però lui mi ha confermato che quelli erano i significati, no? Non so se lo fate passare la traccia o possiamo, perché no, il pubblico ricorda. No, vabbè, volevamo far capire appunto dove è nata l'incomprensione, non so se con questo cubano, ma... No, però non ci sono incomprensioni, in realtà parlerei, in particolare vorrei citare la metafora del video, cioè in particolare il canale sinistro che non funziona nel mixer, no? Tutti quanti ricordano l'immagine iniziale, no? Questa... cioè tu vorresti ascoltare il pezzo facendo lo spiegone sotto? No, ma se voi lo ricordate, immagino che il pubblico non può non rimanere impresso. Purtroppo nel senso che lo sponsor non ci consente di far ascoltare la traccia musicale, sia il mio video diffuso per via orale hanno avuto diffusione, quindi tutti sanno di chi stiamo parlando, perché un successo è un successo. Però vorrei parlare della prima immagine, quella che è rimasta impressa a tutti senza averla mai vista, di questa gaffa gialla dove c'era sopra scritto canale sinistro non funziona, rotto. Allora, la gaffa, per chi non lo sapesse, è un nastro colorato o non colorato che si usa per segnare le cose Sì, esattamente. Palco. Scusa. Quindi è questo nastro giallo, che c'è questa immagine iniziale che è sfocata, quindi lo spettatore vede questa immagine confusa, questo giallo stabilo boss, fluorescente, e non capisce dove va a parare, no, questa immagine. Poi c'è la camera che mette a fuoco e si vede questa scritta canale sinistro rotto. E da lì parte il video, perché questo è l'essenza, l'elemento iniziale, la scintilla iniziale. E anche la metafora, no? Chiarissima, come dicevo prima, l'autore mi ha confermato, era questa incapacità della sinistra di comunicare i propri valori, cioè, e i propri... stai dicendo cose scomode, cose... non sono scomode, questo l'ha detto l'autore, io sono in realtà è l'autore che dice cose scomode, la regia del ballottaggio. Vabbè, è l'autore del, è il cubano, che io sono semplicemente l'autore del video, quindi se avete dei problemi col contenuto dell'audio è il profugo cubano che no, assolutamente. E quindi c'è questo messaggio chiarissimo, no? Questa incapacità di comunicare i valori, canale sinistro, mica ha detto canale destro, ha detto canale sinistro. Ah, ho capito adesso, quindi la satira. Non è satira, è la metafora proprio evidente. E poi c'è questa volontà, questo mentire a se stessi dicendo questa è la prima menzogna, che in realtà non si sa comunicare la cosa, in realtà gli altri non capiscono, in realtà siamo noi che non sappiamo, noi che non sappiamo comunicare. L'altro elemento importante, l'altra metafora fondamentale è questa figura, questo Stakhanov direbbero i russi, questo personaggio che viene il mondo occidentale, questo personaggio puro di alti valori che sì. Mira viene plagiato dal mondo occidentale, che lo trasforma in un mostro, perché questi sono i due significati della traccia. Non so se... Quindi praticamente mi stai dicendo che la cosa importante del video sono l'incomunicabilità, o comunque l'impossibilità di trasmettere informazioni da parte di una forza politica. Ma certo che ho seguito, mi sembrava una lezione di filosofia, divertentissimo. A un certo punto in poi Guido Roschi è così. Un incubo. E quindi esattamente, cioè l'incapacità di comunicare dei valori che sono altissimi, fra l'altro, quindi è una doppia colpa da parte di e chi. E poi l'imbibizione di questo protagonista che praticamente cattura dentro di sé tutte delle cose dall'esterno. Non è solo quello, è proprio un giudizio negativo della civiltà occidentale che piega anche ai personaggi. 100 celle a Marcord. Allora, ad altri non cose a caso, però è stato anche giusto interrompere un attimino. Comunque è bellissimo. Io ho capito perché non è stato realizzato. Esatto, io comincio a farmi un'idea del perché poi il produttore, davanti a questa tua spiegazione, che pure l'altra volta me lo ricordo, ti eri alluppato sul nastro giallo, il produttore abbia detto. Aspetta un attimo, stesso, qui vi fermo. È stato realizzato, vedi che non volete capire, cioè. Allora, cioè, a costo di abbassarti che il video è dentro di te. Perché io sapevo che Mirando Guido, comunque questa trasmissione che già ha preso la deriva, poteva prendere la deriva, se mi passate la battuta, la derivata seconda, sì. Parapum, ah. Niente, cerchiamo di tenere a bada Guido quantomeno facendogli capire che sì, nonostante la tradizione orale, l'opera tua ha subito lo stesso giudizio che subì l'opera appunto dell'intellettuale al quale noi ti abbiamo accostato, che non ce lo stai facendo presentare. Quindi mi hai confermato, io dico, quindi ha subito un giudizio la mia opera, vuol dire che è stata realizzata la mia opera, era un video. Ok, la tua opera è stata realizzata, tutti l'hanno anche ascoltata, adesso la possono riascoltare in podcast raccontata. Però noi ti abbiamo paragonato a Jodorowsky, mica pizza e fighi, se permetti. Jodorowsky, ora Betta ci spiega chi è stato per noi, ma chi è stato in generale. Niente po' di meno che Alessandro Jodorowsky è stato un regista visionario molto particolare, e prima della versione di Dune di Villeneuve e dopo la versione di Lynch provò a realizzare una versione del film Dune, una cosa leggerissima, lunga 4 ore, riunendo la crème della crème degli artisti del tempo, Dalí, Mick Jagger, Orson Welles. Però purtroppo, essendo un film da 4 ore con un budget che praticamente era poco meno di andare sulla luna, non fu mai realizzato. Esiste un documentario bellissimo sulla storia molto particolare della realizzazione di questo film, che si chiama proprio Jodorowsky's Dune, che è anche passato al cinema ultimamente a Roma a causa dell'uscita del Dune di Villeneuve, e ve lo consiglio molto. Quindi bene. Nell'attesa del documentario invece sulla realizzazione di questo video. Esatto, del video di Jorge il Mentiroso. E infatti adesso dalle dune di Dune, dalla sabbia di Dune, ci concentriamo invece visualizzando, se ci riuscite in radio, una pecetta di nastro giallo. Scusa, siete il tecnico, qua no, non funziona, non so che mixer mi hai dato, il canale left, no, non si sente. Non lo so, funzionava perfettamente il mixer. Ai. En la fortaleza prenestina siempre está trabajando. Ya no sabe si habla contigo o si está conectado. Porque aprendió cómo mentirte mirando a los ojos. Porque le gustó la mentira. Porque el mentiroso, porque el mentiroso se olvidó de contarnos muchas cosas sobre su vida. Porque el mentiroso, porque el mentiroso te hizo mal olvidar la verdad. Ay, maldito. Non lo so, il mixer funzionava perfettamente. Il mezclador. Se rompió el mezclador, mezclador de sonido. ¿Dónde está mi soporte técnico? En aval escondido. ¿Por qué me mentiste, Jorge? Ay. Cuentaste que todo iba a ser perfecto. ¿Cómo? Me emborrachaste con tus mentiras. Uy. Jorge el mentiroso, Jorge el mentiroso. Se olvidó de contarnos muchas cosas sobre su vida sabrosa. Jorge el mentiroso, Jorge el mentiroso. La hizo mal olvidar la verdad. Jorge el mentiroso, Jorge el mentiroso. Se olvidó de contarnos muchas cosas sobre su vida sabrosa. Jorge el mentiroso, Jorge muy sabroso. Le hizo mal olvidar la verdad. Jorge. Stai ascoltando Radio Forte e questo a Centocelle Avengers. Avengers. Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte, Forte, Forte, Forte, Forte. Dalla scuola di musica a performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta, non mai, guasta mai, mai, guasta mai, guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. E abbiamo appena ascoltato Jorge el Mentiroso su Radio Forte, Centocelle Avengers. È una hit! Capolavoro indiscusso. Di nuovo in diretta alle 18:19 del 16 ottobre del 2021, quanto siamo precisi. Posso aggiungere che non abbiamo soltanto ascoltato l'audio, ma abbiamo anche visto il video. Assolutamente. Abbiamo sì. Visto il video attraverso le parole dell'autore, che è ancora qui con noi, probabilmente ci accompagnerà. È difficile liberarsi. Mi hanno abbassato il microfono, vorrei dire solo questo. No, abbiamo solo mi hanno censurato. Questa non è una radio libera. Non è una radio libera. Era il canale sinistro. Legatelo. La solo... scusa dei tempi della radio, Iron i tempi. Man, prendilo. Allora, ti abbiamo solo mitigato il volume perché comunque avevi una bella voce squillante. E siccome Silvano ci tiene a colorare i suoni con la giusta intensità. Volevo anche metterti un po' di reverb, ma non ce l'ho fatta. Sì. Bravo. Comunque, senza indugio, che scavallata già da un po', da 20 minuti, la prima ora di Centocelle Avengers, noi entriamo nella rubrica Rise and Fall. Sigla. La nostra relazione è terminata. Insieme a te non ci sto più. Lasciamoci. Lasciarsi un giorno potresti dirmi addio. Lasciarsi e qui non ci sto. Vai, vai. E improvvisamente stiamo di nuovo insieme. Stiamo insieme di nuovo. Che bellezza. La nostra bella vale. Lo manda. Ricominciamo oggi, siamo lì cipolle. Siamo sotto sotto la cenere. Ci sarà un gigante aspettato. Ma che è successo? E in questa puntata di Rise and Fall andiamo a parlare degli Elio e le storie tese. Niente proprio di meno che non parte da traccia, ma questo... Dai, attacca! Questo è il ritmo della sala prove. Si suona dalle 7 alle 9. Ci gasiamo. Allora, a parte la ovvia scelta del pezzo che ci racconta un po' anche a noi della sala prove, che non ripariamo mai le cose, gli Elio e le Storie Tese sono, oltre a uno dei nostri gruppi, diciamo, più gettonati, certo c'è gli Avengers, uno di quei gruppi che ha giocato, probabilmente come cerchiamo di fare anche noi con questa rubrica, sullo scioglimento. Allora, ricordiamo che Rise and Fall richiama i due fenomeni dello scioglimento e della reunion di gruppi. Nel caso di Elio e le Storie Tese si parla di scioglimento prolungato. Quello che è successo fondamentalmente è che loro hanno, come ho detto prima, giocato, probabilmente capito prima di altri quanto la cosa stava diventando di moda, e quindi, volendo poi realmente magari smettere un pochino di suonare, perché hanno una carriera non indifferente, hanno 180 anni per gamba pure loro, hanno appunto fatto una serie di concerti che venivano sempre più o meno pubblicizzati come l'ultimo o l'ultimissimo o dopo questo basta, eccetera eccetera, in una maniera appunto goliardica quanto basta, come sappiamo essere i cari i ragazzi milanesi. E in questo io ho voluto scegliere da ascoltare un pezzo loro, che comunque quindi rientrano nella categoria dei gruppi di cui auspichiamo la reunion, se mai gli andrà proprio, non so come, perché l'ultimo disco poi si chiama Arrivedorci, quindi potrebbe anche succedere, però fondamentalmente insomma ne hanno fatti tanti, e con un pezzo che loro fecero per far riunire un altro famoso gruppo di cui noi poi ci siamo nutriti nelle nostre sigle e siglette. E il pezzo è questo. Sarà capitato anche ai Beatles, Beatles, Beatles, di avere un casino in famiglia. La nippona che il gruppo scompiglia è quella famigerata. Oh no, oh no, oh no, di te il complesso ha paura. Oh no, oh no, oh no, meritavi una doccia scura. Doppio manager, doppio camerino, doppio catering, doppio ufficio stampa, doppio ingresso, molto luminoso, libero subito, instabile signorile. Visite in loco, servono a poco, l'oro e la seta, nella stanzetta non ci son più. E non c'è bomba bumeranga, non c'è iere, troma bomba, dai maremma buhaiola, non fate i grulli, dai pieno fai la pace con le zulli. Dai Diego fai la pace col Perù, l'infima tornate insieme, vi ricordate di quell'epoca che fu, l'infima non vi conviene, una carriera da Renzulli e da Perù, l'infima tornate insieme, l'infima non vi conviene. L'incontrario va. Piange, piange, piange quell'uomo chiamato cavallo, mentre appeso coi ganci nel petto come quello del famoso film. Thank you. E di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers abbiamo ascoltato Litfiba, Tornate insieme, degli Elio, le storie tese, se no poi Gabri, non la Gabri, mi cazzia. Non solo Gabri, anche Manu. Esatto, io pure Manu, la chiamavo la Manu, però mi avete inibito questa storia, quindi Manu. Il Dani. È probabilmente quella che si è fatta più concerti di scioglimento degli Elio, le storie tese tra tutti noi, quindi... Oltre a salutarla, poi avremmo voluto chiederle delucidazioni e approfondimenti. Ma alle 18.27 su Radio Forte 100 Celle Avengers invece andiamo avanti e parliamo di solisti. Anche oggi su 100 Celle Avengers parliamo di questa categoria dei solisti, vessatissima solitamente, proprio perché... Ancora no. Eh sì, ancora no, mi dicono dalla regia, perché le lezioni sono iniziate soltanto questa settimana e quindi non abbiamo ancora materiale per vessare i solisti. La prossima volta te sponno. Cioè, per dire un po' l'aria che tira fra i solisti, per gli allievi. E i musicisti. Più o meno, sempre per il motivo perché i solisti lavorano da soli e non vengono a musica insieme e quindi niente, vengono vessati per questo. Comunque, a parte questo, salve, sono Betta e oggi c'è un pezzo mio. è il pezzo da solista che ho cantato nell'ultimo saggio. Questo pezzo l'ho cantato in un momento veramente particolare, era la mia prima volta sul palco e ricordo che ero molto fiduciosa prima di salire le scalette del palco grande, felicissima di cantare per la prima volta davanti a un pubblico come nei miei sogni di bimba. Ovviamente poi appena salito l'ultimo gradino mi sono vista sul palco dove era stato Caparezza, la banda Bardò, e un metro più sotto c'era una folla di persone indistinte tra le luci, il fumo, e ovviamente mi sono intrecciate le corde vocali a nodo macramè. Però sono ancora molto orgogliosa di aver comunque preso il microfono e averla cantata tutta dall'inizio alla fine. Non è perfetta, ma è vera. E c'è dentro tutta la determinazione di quel giorno e un poderoso The Show Must Go On. Non fare così. Oddio, che vergogna. Tra parentesi, io non l'ho mai sentita, quindi quello che sentirete lo sento anch'io per la prima volta. Aiuto! Siate buoni con me. Grazie al maestro Daniel per il meraviglioso piano, al maestro Antonio per lo splendido basso e a Cristina, allieva del maestro Damiano, per la bellissima batteria. Oggi questa canzone vorrei dedicarla a Marco, che è volato via stanotte. Ciao Magro, vai a insegnare agli angeli come si fa un critico col D20. Adesso su Radio Forte 100 Celle Avengers, Giudizi Universali di Samuele Bersani. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sulle aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro al serbatoio. Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere bene tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi com'ero stata ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi, adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, tra poco pioverà e non c'è niente che mi sposta o vento che mi sposterà. Non puoi fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi, sei solo la copia di me. Riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più, non ci sei più, non ci sei. Grazie bambini, anche meno comunque questa volta. E abbiamo chiuso anche la rubrica dei solisti. Mi permetto di sottolineare un po' il basso a comparsa. Povero maestro. Perché, vabbè, ci fa piacere salutare il nostro maestro Antonio, che ha partecipato all'esecuzione del brano appena ascoltato, Giudizi Universali. Negli ultimi 20 secondi. Ma con quella fretta, diciamo, che contraddistingue il saggio di fine anno, anche lui si è presentato sul palco e ha dimenticato di collegare. Io, perché sono, insomma, del mestiere, quindi un po' ci tengo, però insomma un pochetto anche ho detto, ma proprio tu insomma il maestro che mi, insomma, ha attaccato il basso diciamo diretto all'amplificatore, non collegandolo alla famosa DI box, scatoletta che permette al suono di arrivare anche alle casse, insomma di sentirlo alla gente e di registrarlo soprattutto. Ma è già, quindi, tanto che non ha suonato Bon Jovi. Perché a Centocelle Avengers non solo ci si bacchetta da rubiche, ma ci si bacchetta anche tra maestri. Ripeto, no, vabbè, questa cosa poi era assolutamente. Senti, con affetto, maestro, ma visto che abbiamo i nostri contatti, no, su Telegram, c'è, cioè, Emanuela ci sta scrivendo, che facciamo? Wow. Lo diciamo in diretta che cosa sta scrivendo? Se sai, se intanto, se è qualcosa di non censurato. No, non c'è bisogno di censurare ma nulla. Intanto perché... io ne approfitterei per invitarla ufficialmente come ospite alla prossima puntata di Centocelle Avengers, così ci darà le delucidazioni del caso. È lei che non vuole venire. È un ospite che si fa un po' più. E allora niente, non diciamo nulla di quello che sta dicendo su Telegram. No, perché? Non lo so, perché se poi viene qui, adesso lo viene a dire curiosi, lei. Adesso siamo curiosi, però. Vogliamo allora sapere. Praticamente dice che l'ultimo concerto degli Eli è quello del 2018 di Milano, ma lei in realtà è andata come ultimo concerto, era andata a quello del 2016 con Rocco Danica, che era il suo, diciamo, come sì, si dice, il sì, suo innamorato. Idolo all'interno, sì, del gruppo. Ma poi, siccome per fortuna quello di Milano non è stato effettivamente l'ultimo, ce n'è stato un altro fatto a Barolo e lì c'è andata. Cioè, penso associata anche al famoso vino. Penso proprio di sì. Forse dici che è andata lì per quello. Anch'io ho visto un ultimo concerto. Ho visto due cose insieme. Non volevo dire così. Beh, magari uno si trova lì. Esatto, magari era questo il senso. Non lo so. Poi glielo chiedo. Sicuramente. Manu, scrivici, facci sapere se hai accompagnato, esatto, al concerto un ottimo Barolo. Volevo dire che anch'io ho visto un ultimo concerto degli Eli e l'ho visto all'ex Dogana e hanno fatto una cosa meravigliosa, ovvero il pezzo più bello che ho sentito lì era una cover della sigla di Heidi fatta soltanto da Faso al basso ed è stato commovente. Wow. Bassismi. Adesso per completezza di informazioni ci dica che giorno era e che anno era. Era il 2018 però non so, forse luglio. Vabbè, qui Emanuela continua, però se la seguiamo non facciamo più la trasmissione. È un po' difficile. Manu, scriviamo. Le cose abbiamo aperto un canale Telegram, siamo contenti che stia funzionando e continuiamo a incamerare arricchimenti a Iosa. Ma adesso, ecco, vedi, cambiata la musica, neanche. Comunque, neanche bicchiere, sono stato un io. Bicchiere a Barolo dice se l'ha bevuto, così, ecco. Tanto per dire. Ok, no? Quindi per completezza, diciamo che. Continuate tutto. A scriverci sul nostro canale Telegram. Soprattutto se andate a Barolo. E Virginia dice che sei andata a luglio al concerto dell'ex Dogana, così a buffo. Molto. E c'era pure lei, va bene, basta. Sì, c'era pure lei, ma non ci siamo incontrate. È il momento della cultura musicale per Iron Man, ma soprattutto per tutti noi che ascoltiamo, che si chiama Suona Just Cares For You. Suona Just Cares For You. Lo so, ma volevo chiudere bene, anche se sono le 18.37 non ci esime questo dal fare la nostra lezioncina. Io mi rigioco dei concetti che tu Iron Man senti per la prima volta, ma che in realtà sono un po' un tantinello accademici, ecco. Nel senso che sono un po' l'intro di qualsiasi lezione di ritmica, ecco, perché di quello parliamo oggi. Che tu possa aver o non aver fatto. Ok. Che cosa volevo dire? Che quest'anno abbiamo questa scimmia che cerco di comunicare anche agli altri di affrontare tempi diversi dal 4 quarti. Per cui parliamo di musica insieme, intendo, quindi si tratterà poi di imparare ciascuno nel suo, ecco, a solfeggiare, per dirla in termini tecnici, ma io dico masticare cose diverse dal convenzionale 4 quarti, che ci ha talmente viziato che neanche ci rendiamo conto di quanto, cioè poi quando si esce da quel seminato siamo apparentemente in difficoltà. Quindi con questo che cosa volevo dire? Che prendiamo in esame quelle che possono essere, diciamo, i tempi più frequentemente utilizzati, quindi non andiamo a esagerare con le frazioni e le cose matematiche. Abbiamo il 3 quarti, abbiamo i 5 quarti e prenderemo in esame anche i 7 ottavi, o comunque diciamo la battuta da 7, come la possiamo definire. In questo senso noi dobbiamo calcolare, cioè, quello che bene o male è il nostro approccio quando ragioniamo su un tempo diverso. Ad esempio, appunto, il primo nominato, i tre quarti normalmente, proprio per un fatto che ci porta ad associarli quando li sentiamo scanditi, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, al valzer o comunque a delle modalità di suonata classica, mentre la proposta che quest'anno all'insegna dei tre quarti abbiamo fatto a Musica Insieme è questa. E quindi non ci si capacita di come ci si possa uscire da quel seminato del valzer su un tre quarti, costruirci un innocente che tu non avresti mai detto essere un tre quarti. Invece in questa proposta dei Queens of the Stone Age andiamo proprio a masticare, come dicevo, un tempo disparo. Volendo spostarci su una modalità meno rumorosa, buon Silvano mi scende proprio quando poi risale, non è vero, va bene così, e andiamo su una roba che mastichiamo più spesso come 5 quarti. Il 5 quarti non si conta a 5, si conta 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Cioè c'è sempre la tendenza a steccarlo in due, comunque a dargli un senso quasi binario, ma in realtà è disparo. E questo pezzo di Blue Becker è abbastanza famosetto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Però non ho proposto questo perché non ci abbiamo, cioè non è detto che noi ci si abbia il sassofonista quest'anno. Lo sapremo la prossima volta che sponno. Ok, forse ce l'abbiamo il sassofonista. Lo sapremo a maggio. Noi proporremo il buon vecchio Sting la prossima volta che sponno. Ho capito, Peppino, va bene. Basta che vieni e famo, che comunque io e Peppino facciamo anche questa. Le abbiamo mischiate in medley. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Kind of ultimatum notes she gives me. She gives me. When I thought the field. E andiamo a chiudere la Disa Mina Mima di Tempi Storti, Tempi Sgambi, con l'esempio probabilmente più scontato e accademico che si possa concepire, riferito ai 7/8, che in effetti diresti proprio come si fa. E l'esempio che stiamo per ascoltare fa capire come ci sia un ruolo svolto dalla melodia incastrata in questi 7/8, che è tutto e che te la fa digerire come se nulla fosse, non te ne accorgi e sono 7/8. Ecco, la mia è partita la traccia dall'inizio, il solito, vabbè, mamma arriva. Sì, ma poi senti che bello anche questo montaggio della farsa, è inconfondibile. No? Anche i soldi sono in 7/8, il Money dei Pink Floyd. One, two, three. My E di nuovo in diretta alle 18.46 su Radio Forte Centocelle Avengers. Che cosa succede adesso? Succede quello che succede tutte le settimane. Invece di andare a conquistare il mondo andiamo a parlare dei Beatles. Però oggi abbiamo anche un nome. Abbiamo il nome della rubrica, finalmente. Il nome della rubrica è Più famosi di Gesù. E andremo anche a sapere perché. Dici che la trovo la sigla? No. Oh, eccoci qui. Allora, il nome della rubrica finalmente l'abbiamo trovato. Sono passate soltanto, non so, non 25 puntate, ma 22, 23, 20. Beh, dei Beatles quante saranno, dai? Non ne ho idea, non ne ho assolutamente idea. Comunque fino ad oggi era sempre stata chiamata la rubrica Beatles. E finalmente abbiamo trovato un nome anche sotto pressione. Ma te la chiamavi addirittura la rubrica. La rubrica, è vero, con la R maiuscola. Nel tuo mondo. Vabbè. Perché davanti ai nomi là non va bene, lì non va bene, ma davanti alla rubrica sua sì. La Virgi fa la rubrica. La rubrica con la R maiuscola. La rubrica si intitola Più famosi di Gesù. Oggi volevo andare a spiegare un pochino perché questo nome. E soprattutto volevo parlarvi, non so se brevemente o no, di un documentario che abbiamo visto in casa Virgiano, un documentario che è uscito da poco sulla vita di John Lennon, ma soprattutto sulla vita di John Lennon, diciamo, basata sull'amore, sul sentimento che lui aveva portato così tanto in alto nei suoi testi e nelle sue idee. E questo documentario si chiama Love is All You Need. E diciamo che un pochino tratta della storia di John Lennon prima di creare i Beatles e soprattutto insomma nel periodo finale. E diciamo che possiamo iniziare parlando di John Lennon come il creatore del gruppo, in quanto fu lui a inventarsi i Quarrymen, che sono la base del gruppo che poi è stato appunto è stato portato avanti come i Beatles, in cui c'erano anche Paul McCartney e George Harrison. Ringo ancora non ci stava. E niente, i Quarrymen sono stati appunto leaderizzati in qualche modo, non so come esprimere il concetto, da John Lennon, in quanto lui era un grandissimo conoscitore della musica afroamericana di quel periodo e non solo, soprattutto del rock and roll. Quindi parliamo di Chuck Berry, ma parliamo anche di Elvis. E fu proprio, diciamo, questo suo gusto musicale, unito al fatto che aveva una personalità fantastica e molto eccentrica, a portarlo appunto sulle scene come il leader di questo gruppo che poi si chiamò i Beatles. E alla domanda che gli fecero una volta sul perché i Beatles si chiamavano proprio così, lui rispose: perché no? Quindi abbiamo già più o meno capito un pochino la mentalità e diciamo la verve di John Lennon. Nel momento in cui si incontrarono con il loro manager storico Brian Epstein, lo folgorò immediatamente e subito nacque una grandissima collaborazione tra i due. La collaborazione proseguì nel momento in cui poi i Beatles appunto raggiunsero la formazione finale, quindi con Ringo Starr, e soprattutto quando incontrarono il produttore George Martin. Molte parole sono state spese sul periodo in cui i Beatles sono stati insomma prodotti da George Martin. Le parole che spese George Martin stesso furono che diciamo lui sapeva che comunque aveva la necessità inizialmente di guidare questo gruppo di giovani scapestrati che insomma all'epoca erano molto molto eccentrici, ma a un certo punto risultarono degli ottimi lavoratori effettivamente, e quindi a un certo punto della loro carriera lì si sentì di lasciarli comunque da soli a lavorare, a produrre le proprie canzoni, i propri pezzi. E da questo momento in poi si sviluppò una sorta di competizione ancora sana con Paul McCartney sulla scrittura dei brani, e la cosa fu molto divertente perché insomma più che un'unione di menti era appunto una competizione continua che ci ha portato i più grandi brani dei Beatles. Se pensiamo a Help e a Yesterday per esempio, sono sullo stesso album, sono due pezzi completamente diversi e di due autori chiaramente completamente diversi. In quel periodo John Lennon aveva una moglie, cosa che sembra strano dirlo così, ma per ben 18 mesi John Lennon, consigliato da Brian Epstein, dovette tenere segreta la sua relazione, il suo matrimonio, anche con Cinzia appunto ancora incinta, E un po' per consiglio, diciamo, di Brian Epstein, che in realtà era veramente molto innamorato di John Lennon, e un po' perché le fan si sarebbero scatenate negativamente contro il gruppo. E proprio per questo, insomma, il periodo iniziale dei Beatles assediati dai fan diventò molto meno divertente di quanto non sembrò a tutti quanti all'inizio, soprattutto appunto per John, che oltretutto doveva gestire anche questa difficile situazione. E, ma non solo, perché andando a spiegare poi il titolo di questa rubrica, John se ne uscì in una maniera fantastica, dicendo negli anni 60 in America che i Beatles in quel momento erano più famosi di Gesù. Ora, sicuramente questa affermazione è stata presa un po' come oggi sarebbe un titolo clickbait, nel senso che sicuramente sarà stata spiegata male e avrà creato mille aspettative, però diciamo che in quel momento scatenò l'inferno, perché ci furono radio su radio che decisero di non passare più Beatles, negozi che decisero di non vendere più album dei Beatles e ragazzini che decisero in America di bruciare gli album dei Beatles stessi, finché non arrivò il nostro Paul McCartney a dare una mano a John. Esatto, era il nostro migliore amico. E come amico. Gliel'ha data questa mano? E come gliel'ha data questa mano? È stato un grande per quanto mi riguarda, perché ancora in America, in una conferenza stampa per cercare di scusarsi sull'accaduto, John effettivamente si scusò alla larga di questa sua affermazione, mentre Paul McCartney accusò effettivamente gli Stati Uniti d'America di essere un paese bigotto, di essere un paese ricco di censure, e che in Inghilterra questa cosa non sarebbe mai e poi mai successa, aggiungendo anche che sapeva di essersi fregato con le sue stesse mani. Ups. E queste sono le parole del nostro fantastico Paul, che secondo me è sempre una marcia in più. L'ho fatto un'altra volta. L'ho fatto anche ora. Bene, e una volta, diciamo, concluso questo periodo folle di assediamenti di fan, i Beatles si ritirarono nello studio di registrazione, iniziarono a registrare i propri album, e arriviamo a una seconda fase, se non terza fase, dei Beatles e di John Lennon con l'arrivo di Yoko Ono. Ora, l'arrivo di Yoko Ono è ovviamente molto molto controverso, perché comunque ancora oggi possiamo trovare persone che ce l'hanno con Yoko Ono. Ono. Esatto, tutto collegato. Ancora oggi possiamo trovare persone che ce l'hanno con Yoko Ono semplicemente perché ha levato da John Lennon tutto il divertimento. Io vorrei aggiungere che il divertimento di John Lennon, sebbene io lo giudichi fantastico, era anche prendere in giro dei poveri disabili che si trovavano lì davanti a loro sul palco. Quindi, insomma, meglio che è cresciuto un pochino, meglio che ha deciso di mettersi un pochino più in riga e insomma di andare avanti più con i suoi concetti, ecco. Dalla parte di Yoko, quindi questa... Assolutamente sì. Questa sottorubrica. Sì, è importante. Non è una sottorubrica, è proprio una rubrica. Era la rubrica con la R maiuscola, ma è diventata una sottorubrica. No, dicevo una sottorubrica, allora... solo dedicata al recupero della figura di Yoko Ono. Ma ne parliamo solo oggi, però sì, vabbè. Prego. Si chiamerà Yoko Poco ma Yoko. Esatto. Noi ti lanciamo idee, Virgi. Comunque era la parte seria della rubrica di oggi. Grazie a tutti. Chiedo scusa. Ecco, con l'arrivo di Yoko Ono noi possiamo vedere un John Lennon che in realtà voleva crescere, voleva levarsi tutto questo, chiamiamolo divertimento, dalle sue performance, e incontrò un'artista che si occupava di arte concettuale, e lei credeva fermamente di dover coinvolgere il pubblico attivamente nelle proprie opere. Questa fu una cosa che per John fu, diciamo, una folgorazione in qualche modo. L'unione era sicuramente molto forte tra i due, tanto che fu la prima donna ad apparire in un album dei Beatles, e qui possiamo avere un esempio in Bungalow Bill. His mommy petted him. If looks could kill, it would have been us instead of him. All the children sing, hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. poi dici che si sono sciolti. Ecco, diciamo che Yoko Ono non era stata aiutata né dalla sua soave voce, né dalla sua simpatia disarmante, né dal fatto che poi, oltretutto, era negli anni 60 una donna di 10 anni più grande di John Lennon e, oltretutto, asiatica. Quindi, ma come fa? Ma... spiegacelo, spiegacelo Yoko. E quindi, insomma, erano tutte le cose che in quel momento giocavano veramente poco a favore di Yoko Ono e le valsero il premio la più odiata di sempre, almeno in Inghilterra, insomma. In realtà io vorrei dire che senza Yoko Ono noi non avremmo avuto quel John Lennon che poi lasciò i Beatles e iniziò a fare il proprio percorso. Sicuramente un percorso che fece in coppia e non fece da solo, però era un percorso che lo portò ad essere un pacifista, una persona che protestava attivamente contro ogni forma di violenza. Era quel John Lennon che le proteste le faceva dentro il suo letto. E mi dicono di nudo, tagliare. Nudo. No, no, nel suo letto nudo. Nel suo letto. Oh, era quel John Lennon che si apparve sulle copertine dei suoi album completamente nudo, nonostante avesse avuto in Help, soprattutto lo possiamo ritrovare, dei disturbi alimentari. E quindi grazie a Yoko di avercelo portato fino a oggi e di averlo reso la grande perdita che abbiamo avuto. E quindi cosa ascoltiamo? Ascoltiamo in coda. Ascoltiamo The Ballad of John and Yoko, dedicata a entrambi. Più famosi di Gesù. Standing in the dockets of Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac says you've gotta go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going. E su 100 Celle Avengers con un po' di Yoko Ono saluteremo comunque di sottofondo. Anzi no, vabbè, togliamo, mettiamo il nostro sottofondo che ci porta verso la sigla. Ci consente soltanto di dire, no scusa, non era per quello. Anzi ragazzi, vi voglio sempre così, arzilli, pieni di contenuti. Oggi abbiamo fatto 18.000 rubriche e con questo vi diciamo che comunque se ve le siete perse le trovate in podcast sul sito del fortepenestino.net /radioforte, ma comunque è un sito attrezzatissimo dove clicchi e ci arrivi subito. E niente, noi ci rivediamo fra 15 giorni, vi voglio bene, dite qualcosa per... Un rabarbaro! Oh, un rabarbaro generale potrebbe essere sulla sigla qualcosa di... Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro! Rabarbaro!